Diretta. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della posizione molto dura, devo dire, del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, da sempre considerato un falco, ma insomma ha detto che la situazione sarà più difficile nel futuro, ma soprattutto ha attaccato l'Unione Europea invitando a controllare meglio i bilanci dei vari paesi e invitando Bruxelles a rivolgere le raccomandazioni sugli investimenti che sono arrivate a Berlino. Sappiamo che Berlino ha un avanzo commerciale tra quello che esporta e quello che importa che ha toccato un livello altissimo, il 9% del PIL, e soprattutto superiore al 6% considerato il tetto massimo dall'Unione Europea. Dice Schäuble invece fate questa raccomandazione a altri paesi, noi investiamo quasi 6 volte più della media degli altri paesi europei. Su questo ne parleremo ampiamente, così come avremo anche alcune notizie sugli investimenti in edilizia scolastica. Oggi è intervenuto anche il Presidente del Consiglio su questo, ma anche la Cassa Depositi e Prestiti. Dicevo, al di là di questo e di alcuni passaggi, visto che parliamo anche di banche, dell'intervento del numero uno dell'ABI Patuelli questa mattina da Giovanni Minoli a Mix24, parleremo, dicevo, delle tensioni tra la Germania, che inizia la campagna elettorale con la ricandidatura ufficiale per la quarta volta di Angela Merkel, ma anche della Francia, ossia i due paesi che nel 2017 vanno a elezioni. Questo per non concentrarsi sempre, anche se lo sappiamo che il tema è sempre sullo sfondo, sul nostro referendum. Nel giorno in cui, lo dico prima di avere troppe polemiche, c'è anche un dato che fotografa la soddisfazione degli italiani, che è tornata ai massimi da 5 anni a questa parte, ossia le prospettive degli italiani. Lo dico prima che uno inizia a dire ecco propaganda, un dato che adesso ricorderemo: le prospettive, il clima dei consumatori italiani è tornato ai livelli più alti da 5 anni a questa parte, che non vuol dire livelli alti, vuol dire che ha recuperato l'andamento perso in questi 5 anni come risalita. Di questo parleremo. Del petrolio non vedo alcune domande, non parleremo, anche se il petrolio è fermo a $48 al barile, in attesa, ormai lo danno tutti per scontato, che vi sia un accordo tra paesi OPEC e non OPEC. Invece parleremo di quello che sta capitando a Wall Street, ossia il piano dei primi 100 giorni della presidenza Trump ha avuto un effetto anche su Wall Street. E tra l'altro il Dow Jones per la prima volta ha superato i 19.000 punti e anche lo Standard & Poor's 500 ai massimi ha superato ieri quota 2.200 punti. Di nuovo, ripeto, tra l'altro i record si sono ripetuti anche oggi. Perché? Perché adesso il Dow Jones guadagna tra virgolette solo lo 0,16%, ma lo Standard & Poor's 500 è praticamente invariato, ma hanno ritoccato, diciamo, il livello dei 19.000 punti il Dow Jones e il livello dei 2.200 punti lo Standard & Poor's. Al di là dei punti, la cosa interessante è che la borsa statunitense sta premiando, diciamo, il piano di quello che si è capito del piano di Trump, e lo sta premiando in maniera abbastanza visibile, al netto di quelle che potranno essere le oscillazioni. Vanno bene in particolar modo i titoli legati al settore difesa e lo spazio difesa negli Stati Uniti. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Primo poi c'è stato il rally dei titoli di ricostruzione, visto che il nuovo presidente Donald Trump viene proprio da lì. Poi in borsa c'è stato il rally dei titoli farmaceutici, visto che sempre il nuovo presidente Donald Trump ha detto che smonterà la riforma sanitaria di Obama, che appunto aveva tagliato gli affari e i profitti delle società farmaceutiche. Adesso è arrivato al terzo tassello, ovvero la difesa, il terzo cardine della politica economica di Trump e soprattutto della politica internazionale. Sembra infatti posizionato per crescere più di ogni altro settore, almeno è questo quello che pensa la borsa, dove tutti i titoli del comparto degli armamenti, compreso anche quello aeronautico e soprattutto la Boeing, stanno salendo tra il 3, il 4, il 5 e anche il 6% in questa giornata di nuovi record di Wall Street. Ma che cosa c'è dietro le armi? Il fatto è curioso, perché in realtà, se andiamo a guardare le cifre, la spesa per il 2016 in armamenti degli americani raggiungerà a fine anno un nuovo record storico, 596 miliardi di dollari. Pensate che si tratta di una cifra che è superiore alla somma della spesa in armamenti dei 7 paesi che vengono dopo nella classifica delle armi, compresa la Cina, l'Arabia Saudita e persino la Russia. È un fatto curioso perché è stato lo stesso Trump a dire che la spesa militare americana doveva riconciliarsi con le caratteristiche geopolitiche e soprattutto ridursi, quantomeno per chi non è alleato degli americani, in Europa. Fatto sta che la borsa comunque continua a credere che tutto ciò che ha promesso Trump nella campagna elettorale sarà quello che si avvera, anche se nel caso della difesa Trump dimentica che c'è una legge che è stata votata nel 2011 che mette un tetto alla spesa militare e questo tetto è già stato raggiunto. Altre speranze per gli incrementi, insomma, restano solo in borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. E visto che parlavamo di borsa, segnalo che oggi va particolarmente bene Milano, più 1,50%, particolarmente se confrontata alle altre borse europee. Parigi guadagna lo 0,5%, Francoforte lo 0,3%, Londra più 0,80%, è molto forte il titolo Generali, più 4,40%, Unipol più 3,5%, Intesa San Paolo più 3,20%, come Unipol sai, il 3% lo guadagna Enel e Unicredit, il 2,90%. ST Microelectronics, il 2,30 il rialzo di Italgas e Banca Mediolanum, il 2,20 quello di CNH Industrial e Exor, il 2% lo porta a casa la Popolare Emilia Romagna, l'1,90 Mediobanca. Fronte opposto invece ricordati meno 2,70 come Tenaris, il 2,30 lo perde Azimut, l'1,70% lo perde Salvatore Ferragamo, l'1,60% il calo anche oggi di Monte dei Paschi, di cui parleremo, che comunque ha un valore dell'azione tornato a 22 centesimi di euro. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Vedo alcuni commenti sul dato dell'Istat. Sì, l'Istat fotografa per la prima volta dopo 5 anni un miglioramento delle stime relative al giudizio delle famiglie sulla soddisfazione per le condizioni di vita, cioè si va a chiedere com'è, che giudizio dai sulla tua condizione di vita. Per la prima volta dopo 5 anni è tornato a crescere, sono passate dal 35% del 2015 quelle che le famiglie che esprimevano una alta soddisfazione per la propria vita, dal 35 al 41%. So già che alcuni vorranno legare questa a una propaganda occulta, pro referendum, non me ne frega nulla, abbiamo chiesto ieri in tutti i modi. Comunque, è stabile la soddisfazione per gli aspetti relazionali con famiglie e amici, non riguarda infatti solo la parte economica, ma anche, diciamo, una parte più sociologica. Accanto a questa notizia però c'è un'altra meno bella, che viene diffusa oggi dal Global Wealth Report di Credit Suisse Research Institute, cioè il rapporto annuale sulla ricchezza mondiale. Perché dico meno bella per noi? Perché Credit Suisse stima che nel 2016 la ricchezza media netta per italiano adulto in dollari sia scesa dell'1,1% dal 2015, cioè è scesa da 204.600 dollari a 202.000 dollari, circa 190.000 euro. A cambi costanti, perché poi c'è anche il calo, comunque è stato lo 0,8%. Se si prende però la ricchezza media di un italiano dal 2000, cioè si fa una fotografia non confrontandolo col 2007, ma con il 2000, si nota che nonostante l'erosione della ricchezza avvenuta in questi 8 anni, ancora siamo cresciuti di un 2,2% a cambi costanti, quindi senza l'effetto dollaro. Che cos'è la ricchezza media, prima di rispondere alle polemiche? La ricchezza media viene calcolata come la somma della ricchezza mobiliare, quindi investimenti azionari, quant'altro, e immobiliare. Ecco perché il dato è così alto, perché sappiamo che l'80% quasi degli italiani hanno una casa di proprietà. E immobiliare, il calo in Italia è stato guidato soprattutto dal calo del mercato immobiliare, quindi se tu vai a prendere quello che era il valore della tua casa in media e dei tuoi risparmi era 204.000, il calo del prezzo delle case tra 2015 e 2016 ha fatto scendere il valore della ricchezza media netta per italiano. Tra l'altro solo questo aspetto, cioè la ricchezza immobiliare, ha avuto un calo importante. Devo dire che nel rapporto di quest'anno si sottolinea come sia in calo anche la ricchezza mobiliare, in primo luogo per andamento delle azioni, calata del 6% per adulto. E a questo proposito, visto che il rapporto di Credit Suisse è un rapporto mondiale, è interessante notare quello che scrive Credit Suisse sulla Gran Bretagna, perché dice che la Gran Bretagna ha perso il 15% dei suoi milionari in dollari per le turbulenze e le incertezze legate al referendum sulla Brexit. Ripeto, è Credit Suisse che fa il rapporto. Il calo della sterlina e la flessione dei mercati hanno contribuito a ridurre i patrimoni britannici per una cifra complessiva di 1.500 miliardi di dollari. Questo a giugno del 2016. Per gli analisti svizzeri il futuro appare molto incerto, l'economia nazionale e la ricchezza privata infatti saranno messe sotto pressione dagli effetti poi della Brexit. Veniamo all'Italia, l'edilizia deve essere scolastica, è un fuori dal patto dell'Unione Europea. Lo ha ricordato oggi nel suo intervento alla scuola Pablo Neruda di Roma per la giornata nazionale della sicurezza nelle scuole il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Tutto quello che serve per le scuole va trovato grazie alla parte d'Europa che crede e investe nel futuro. Tra l'altro il vicepresidente della Banca Europea per gli investimenti della BEI, Dario Scannapieco, intervenuto appunto assieme al presidente del Consiglio, ha ricordato come la BEI metterà 800 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole. Sentiamo Scannapieco. Oltre alla ricostruzione c'è soprattutto la prevenzione. Lavoriamo da mesi con la Presidenza del Consiglio e altre amministrazioni per il finanziamento del Piano Nazionale sul Dissesto Idrogeologico. E abbiamo un primo concreto risultato che posso anticipare, Presidente. Nell'ultimo Consiglio di Amministrazione della Banca, la scorsa settimana, abbiamo approvato un finanziamento di 800 milioni per progetti di messa in sicurezza su tutto il territorio nazionale. Un altro programma quindi di investimenti che secondo noi mette in sicurezza e migliora la qualità della vita dei cittadini italiani. Un rapido accenno infine al piano Juncker. Da aprile 2015 il gruppo BEI ha approvato operazioni per 27 miliardi e mezzo di euro e 154 miliardi sono gli investimenti attivati. Siamo al 49% del piano da 315 miliardi. L'Italia è al primo posto in Europa, avanti a Spagna e Gran Bretagna. Ancora sul tema scuola, edilizia scolastica, il Presidente del Consiglio ha annunciato la firma di un documento, un protocollo, BEI, Cassa Depositi e Prestiti per 530 milioni, la BEI ha liberato altri 530 milioni di euro per le scuole italiane e su questo è intervenuto anche il numero uno di Cassa Depositi e Prestiti, il nostro delegato Fabio Gallia, ricordando che è una giornata importante anche per la CDP, in 8 anni vi saranno risorse per 2,5 miliardi proprio sulla sicurezza, sulla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Oggi è una giornata importante anche per noi. Crediamo che un investimento come questo, che è un investimento che riguarda la sicurezza, ma che riguarda il mondo della scuola e quindi riguarda il mondo del capitale umano. Investire sul capitale umano credo sia una delle cose più importanti che un paese possa fare per il proprio futuro e per la propria competitività. Questo non lo dicono soltanto ogni tipo di studi, ma lo dice quella che è il confronto quotidiano che abbiamo guardando il nostro paese rispetto agli altri. Abbiamo delle risorse straordinarie e il fatto che il governo abbia deciso di tornare a investire con decisione sul capitale umano è un fattore importante per quelle che saranno le ricadute non soltanto dell'oggi ma anche per il domani. Cassa Depositi e Prestiti potenzia, grazie alla decisione del governo, quello che è il proprio intervento, mettendo nuove risorse per la sicurezza, per la manutenzione straordinaria e anche per la creazione di nuovi complessi scolastici, compreso le palestre. È uno sforzo che sta portando avanti ormai da alcuni anni, in piena sinergia anche con la Banca Europea degli Investimenti, e che ha già visto mobilitare risorse per circa 2 miliardi e mezzo in questi ultimi 8 anni. Allora, qualcuno mi scrive: affermare che 8 italiani su 10 posseggono una casa è una cavolata. No, guardi, fonte Eurostat 2014, quindi il dato è un po' vecchio, casomai. Io ho detto quasi l'80%, in realtà la cifra è 73%, ci sono andato vicino, di italiani che sono proprietari di un immobile. Attenzione, essere proprietari di un immobile per la statistica non vuol dire che l'hai comprata tutta la casa, cioè è chiaro che in moltissimi casi hai un mutuo ancora da pagare, però dal punto di vista statistico non sei in affitto, sei proprietario di casa tua. Andiamo avanti con dell'intervento di questa mattina a Mix 24 da Giovanni Minoli, del presidente dell'ABI Antonio Patuelli, che per quello che riguarda la parte, diciamo, della situazione delle banche italiane ha detto che il credito bancario sta lentamente migliorando, un trend, diciamo, che si vede anche da alcuni dati Consob oggi riportati da Sole 24 Ore. E poi sulla responsabilità dei vertici della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ha detto: insomma, fate andare avanti la magistratura. Le sofferenze stanno diminuendo, lo evidenzia il Sole 24 Ore questa mattina con dati della Consob a pagina 5, e noi l'avevamo già rilevato. Lei dice anche che c'è la fila per comprare i crediti deteriorati delle banche italiane, ma che è meglio non cedere i crediti deteriorati e provare a amministrarli in proprio. Perché? La fila c'è perché acquirenti di ogni parte del mondo vedono l'affare. D'accordo. Cercano di comprarli a bassi prezzi e poi di gestirli e guadagnarci. In Italia penso che molte banche più istituti specializzati siano capaci di fare la stessa cosa. E perché non lo fanno? E perché non lo fanno? Lo dice, chi è che lo dice che non lo fanno? Ah. Tant'è che sono in calo le sofferenze. Ci sono state da un secolo a questa parte in Italia banche ottime, banche medie, quello che è capitato alle banche venete, però è una cosa abbastanza orrenda. Esatto, è sulle ginocchia della magistratura, e io grande rispetto per la magistratura. D'accordo. Allora, ancora due notizie. Una riguarda il Monte dei Paschi, perché non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere stato raggiunto a questo punto, a tutti gli effetti, il quorum, salvo sorpresa dell'ultima ora, quindi il quorum per riunire regolarmente l'Assemblea che giovedì dovrà deliberare sull'aumento da 5 miliardi per il Monte dei Paschi. Il quorum necessario era pari al 20% del capitale. L'ultimo pezzo che mancava per arrivare al 20% lo hanno fornito, da quello che si è capito, i fondi esteri. Questo sul titolo, mentre il titolo anche oggi soffre, perde il 2,35%. Oggi, a proposito di titoli invece e di titoli a grande capitalizzazione, è stato presentato il piano strategico di Enel, che adesso guadagna il 3%. Il piano strategico 2017-2019, Enel ha anche annunciato un piano di riacquisto di azioni proprie per 2 miliardi di euro, ne parleremo durante i mercati finanziari, ma anche anticipo che ha anche annunciato un incremento del dividendo. Il titolo del gruppo, appunto, dopo l'incremento del dividendo è iniziato a crescere di oltre il 3%. L'ultima notizia invece non è buona, non è bella, e riguarda la denuncia di Confcommercio, che oggi, presentando un'indagine chiamata Legalità Mi Piace, ha fatto notare come un imprenditore su 10 nel mondo del commercio abbia subito minacce o intimidazioni con finalità di estorsione. Uno su sette dichiara di conoscere altre imprese che sono state oggetto di minacce. Sono pressioni psicologiche nel 77% dei casi, e la cosa diciamo drammatica è che nel 61% dei casi, cioè 6 volte su 10, gli imprenditori minacciati hanno ceduto alla richiesta di estorsione, quindi hanno pagato pizzo o tangente che fosse. Un campione di 900 imprenditori, chiaramente il 30% dei imprenditori colpiti al sud, però attenzione, il 31% nelle grandi città al centro-sud. I settori più bersagliati sono gli alimentari, i pubblici esercizi, e al sud il numero di imprenditori che dichiara di aver ricevuto una richiesta di pagare il pizzo sale al 79%. Quanto alla percezione della criminalità, un imprenditore su quattro avverte un peggioramento nei livelli di sicurezza della propria attività, stiamo parlando sempre di imprenditori del mondo del commercio, rispetto all'anno scorso, soprattutto al nord-est. Su questo la nostra Teresa Trillò ha intervistato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Legalità e sicurezza sono il prerequisito di una democrazia compiuta, condizioni essenziali per una economia sana e un mercato che funziona. Purtroppo i costi sociali ed economici dei fenomeni criminali, contraffazione, abusivismo, estorsioni, rapine, furti, racket, usura, taccheggio, non diminuiscono, e quest'anno sottraggono, portano via alle imprese del commercio e ai pubblici esercizi 26 miliardi e mezzo di euro di fatturato, con la perdita di 180.000 posti di lavoro regolari. L'illegalità vanifica l'impegno di tanti imprenditori, ne distrugge la fiducia, la voglia di fare impresa, la voglia di rischiare. Per questo continuiamo a dire che si deve denunciare, si può e conviene, si deve perché è un dovere morale e giuridico, si può perché non si è soli davanti alle minacce della criminalità, e conviene. Allora, queste le notizie in breve, adesso andiamo verso la pausa col meteo, la pubblicità, e poi partiamo col primo tema. Mi riferisco a Germania e Francia, due paesi molto che iniziano a agitarsi in vista delle elezioni, ma anche diciamo quella che è la posizione di aperto scontro di oggi di Schäuble, del ministro delle finanze Schäuble, nei confronti della Commissione europea. Dicevamo ieri con Guido Gentili, insomma, che è sbagliato legare l'esito dell'economia breve all'andamento dell'economia breve, scusatemi, all'esito del referendum. Sbagliato, controproducente, aumenta solo le tensioni e l'attenzione verso l'Italia. Poi uno può pensare quello che vuole e giocarsi la partita che vuole. Anche di questo parleremo sullo sfondo, perché insomma sono i tre paesi che in questo momento possono rappresentare, da un punto di vista politico, la maggiore incertezza su quello che poi sarà l'andamento economico del 2017 per l'area euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Deutschland hat in den Jahren seit 2005 bis einschließlich 2015. Dal 2005 al 2015 le entrate pubbliche sono aumentate del 3,3% all'anno, e nello stesso periodo l'aumento della zona euro è stato del 2,7%. In Germania la spesa pubblica è aumentata del 2,3% l'anno nella zona euro e del 2,5%. Gli investimenti in Germania sono saliti del 3,9%, mentre nella zona euro solo dello 0,7%. Quindi penso che le raccomandazioni della Commissione europea siano rivolte al paese sbagliato. Ich finde also, die Empfehlungen der Kommission gehen irgendwie an den falschen in der europäischen Politik. Allora, insomma, la Commissione europea che dovrebbe guardare meglio dentro i bilanci e le manovre e i conti dei paesi e soprattutto non rivolgere alla Germania la critica di investire poco. La critica qual è? Che la Germania ha troppo fieno in cascina, a partire dall'avanzo commerciale, più alto di quanto non venga richiesto all'Europa. L'Europa chiede infatti di non avere dei deficit troppo alti, sopra il 3%, ma non puoi neanche avere un avanzo troppo alto, altrimenti avresti degli squilibri enormi che già ci sono nell'area euro. Ringrazio Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera professore. Buonasera a lei. Partiamo dalla Germania, poi andiamo alla Francia e poi chiudiamo anche sul nostro referendum. Un ascoltatore, tutto, devo dire che è un periodo che i messaggi, l'avvelenamento, io non so se sia frutto anche di questa campagna condotta in questo modo da tutte e due le parti, però i messaggi sono, ragazzi, state tranquilli, di una violenza. Allora, un ascoltatore mi scrive, ma al di là degli insulti, non ci sono elezioni ma un referendum sulla Costituzione, sono cose diverse, analfabeta. Infatti sono cose molto diverse, in Germania, anzi prima in Francia e poi in Germania si vota, da noi, e lì è comprensibile anche, diciamo, tutto uno scontro politico tra schieramenti. Da noi si fa votare la riforma della Costituzione, ecco perché abbiamo detto ieri che è sbagliato legarlo all'andamento a breve del ciclo economico al netto delle speculazioni sui mercati. Comunque, De Aglio, partiamo dalla Germania. Questo è il primo Schäuble, secondo lei, che torna a fare il falco dopo che Angela Merkel ha confermato che correrà anche per la quarta volta come per restare cancelliera? Direi che Schäuble a questo punto va a briglia sciolta, mentre prima ci poteva essere una sua legittima ma remota aspettativa di sostituire la Merkel. Quindi è coperto dalla Merkel, diciamo così, che occupa la parte centrale dello schieramento, e quindi può svolgere quella funzione che gli piace molto, cioè di pungolare, di polemizzare, di avere sempre qualche nemico da attaccare. E tra l'altro lei dice giustamente, visto che si è candidata alla Merkel, si è ricandidata alla Merkel, Schäuble non deve più moderare i toni, ma secondo lei queste accuse sono realmente rivolte all'Europa o all'elettorato tedesco per non farlo votare Alternative for Deutschland, cioè il partito più populista di destra nazionalista? Io credo, Schäuble è un politico di lungo corso e tutto sommato, nonostante a noi piaccia poco, è persona saggia e credo onesta. Credo che lui debba coprire il fianco destro della Merkel e quindi deve essere la faccia feroce, per dire così, della CDU, della Democrazia Cristiana Tedesca, che impedisce di perdere elettori nei confronti di Alternative für Deutschland, che è invece la destra. Allora, un ascoltatore mi scrive, ma insomma nessuno ricorda il voto in Austria il 4 dicembre. Certo che ce lo ricordiamo, infatti nel GR del 5 dicembre, scusatemi, abbiamo già previsto, facendo proprio in questi giorni la scaletta, anche dei pezzi sull'Austria. Dopodiché è ovvio che il 5 dicembre saremmo già dalla notte, diciamo, stessa a commentare se hanno vinto i sì o se hanno vinto i no, per cui... E soprattutto alle 9 di mattina a vedere come reagiscono anche i mercati. Restiamo però un attimo sulla Germania. Le elezioni però sono a settembre in Germania. Non è partita un po' presto la campagna lì? Purtroppo osserviamo in tutto il mondo questa tendenza alle campagne che partono sempre prima. Cioè, non siamo solo noi a essere in una campagna quasi permanente. Prendiamo gli Stati Uniti, ci mettono un anno e mezzo a scegliere il candidato e poi i candidati hanno questi lunghissimi mesi di giri territoriali, di scontri in televisione, eccetera. E noi stiamo andando nella stessa direzione. Questo, diciamo, vale per la Germania, ma secondo lei, diciamo, e qui vengo più alla prospettiva che mi interessa, cioè che 2017 sarà. Non facciamo tanto perché ci avviamo alla fine del 2016, quanto perché un insieme di notizie si accavallano. Adesso verrò anche la Francia. Secondo lei dalla campagna elettorale in Germania che cosa dobbiamo attenderci? Cioè l'Europa e i flussi migratori al centro o l'Europa e la gestione economica al centro? Direi tutti e due, con un'alternanza dialettica delle due parti. Insomma, la parte migratoria sarà in qualche modo gestita, tra virgolette, da un punto di vista elettorale, soprattutto dai socialdemocratici, la parte economico-finanziaria sarà gestita da Schäuble e dai suoi. Quindi vedrei una situazione del genere per dare, diciamo, come un grosso supermercato, metto dei prodotti in vendita un po' per tutti i gusti. E in fondo la vocazione democristiana della CDU è proprio questa, di avere una risposta per tutti i tipi di interrogativi e quindi di proporsi come il partito leader. Quella che da noi si chiamava la grande balena bianca una volta, quando era la nostra DC, avere tante anime al suo interno. Passiamo per un attimo alla Francia, poi vado sul traffico. François Fillon, chiaramente la notizia è di domenica, erano le primarie del centrodestra, ha superato, devo dire abbastanza a sorpresa, non solo per avere sbancato gli altri due concorrenti, ma per il modo in cui ha fatto 44% dei voti. Il secondo classificato Alain Juppé 28% e poi Nicolas Sarkozy, che si è dovuto accontentare del, diciamo così, della pacca sulla spalla da parte di Carla Bruni, che ha detto non sempre i migliori ce la fanno, e Sarkozy al 20% ha detto che rinuncia alla politica, torna a una vita privata. La cosa incredibile di queste primarie del centrodestra in Francia è anche il numero di votanti. Anche lì potevano votare anche persone non di centrodestra, chiaramente un po' come le nostre primarie, però 4 milioni di elettori. Pensate che le primarie fatte dalla gauche, dalla sinistra nel 2011 in Francia non ottennero più di 2 milioni e 600 mila votanti, che comunque è una cifra importante. Questa volta 4 milioni di elettori. Sentiamo le parole di Fillon nella serata di domenica, in cui si dichiara chiaramente contento della vittoria, ma fa già capire quali sono le sue intenzioni programmatiche. Autour de nous une dynamique puissante est enclenchée. Attorno a noi è scattata una dinamica potente. C'è speranza ed è stata manifestata con forza in tutta la Francia, smentendo tutte le previsioni. Il mio progetto scatenerà una nuova speranza. Porto con me quegli elettori della destra e del centro che vogliono la vittoria dei loro valori. E la mia convinzione è che niente può fermare una nazione che si alza in piedi con orgoglio. Ai miei concorrenti, che non sono arrivati al secondo turno, dico che hanno difeso le loro idee e che hanno reso servizio alla democrazia. La sconfitta non deve umiliare nessuno, perché avremo bisogno di tutti. Voglio ringraziare quanti mi hanno dato il loro sostegno e rivolgo un pensiero speciale a Nicolas Sarkozy, che è stato presidente della Francia. Le président de la France. Allora, così rispondo anche a un ascoltatore che dice: ma non c'è più focus economia. Guardi, capisco la battuta, ma questi sono temi molto economici. Sapere cosa succederà in Germania e quale sarà l'atteggiamento della Germania nei confronti di Bruxelles mi sembra un tema economico. E così vale anche per la Francia. Tra l'altro Fillon ha annunciato un taglio della spesa pubblica per 110 miliardi, vedremo se riuscirà a farlo, e 50 miliardi di riduzione della pressione fiscale diretta, 40 miliardi meno per le imprese e 10 per le famiglie. Banalmente è quel rapporto che ci permettemmo di suggerire al premier Matteo Renzi 2 anni fa, quando invece optò per levare tutto, diciamo, alle famiglie e meno, e ancora aspettiamo la riduzione di IRPEF sostanzialmente e IRAP, cancellazione dell'imposta patrimoniale addirittura in Francia, passaggio a 39 ore nell'orario effettivo di lavoro, 600.000 posti di funzionari da tagliare, dipendenti pubblici, pensione a 65 anni. Professor D'Aglio, dopo il traffico vorrei un commento analogo a quello che lei ha già fatto sulla Germania, anche per quello che riguarda la sfida francese. Lì in realtà è simile anche in questo caso, cioè abbiamo un partito di centro che non si chiama CDU ma sono i gollisti, che con ogni probabilità dovrà sfidare Marine Le Pen, quindi la parte ancora più a destra, François Hollande, che mi sembra completamente fuori dai giochi. Dopo il traffico la risposta. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta Focus Economia. Allora, 17:50 minuti, professor D'Aglio, vicenda simile a quella tedesca o no? Intendiamoci bene, intanto gli obiettivi che ha delineato Fillon, come tende a farsi adesso, sono obiettivi cumulativi di tutto il suo periodo presidenziale. Mm-hmm. Quindi queste cifre molto grosse fanno impressione perché si riferiscono a un periodo di più anni. Altrimenti sarebbero, diciamo così, molto più ragionevoli. Mm-hmm. La Francia ha in realtà un problema diverso da quello della Germania, e il problema è che il suo deficit non è sotto controllo, sta molto peggio dell'Italia da questo punto di vista. Sì. E i tedeschi hanno sempre chiuso un occhio nei riguardi della Francia perché sanno benissimo che l'Europa dipende dall'alleanza tra loro due. Mentre l'Italia si può anche bacchettare perché è più piccola, perché politicamente conta meno. Quindi io penso questo, che questa sia una grossa dichiarazione di intenzione in cui di nuovo ha messo un po' di tutto con, diciamo, una prevalenza di austerità, perché bisogna anche farlo vedere ai tedeschi, bisogna farlo vedere al mondo che la Francia fa sul serio. Su come raggiungerà queste cifre, francamente, non c'è nessuna indicazione. Quindi è un classico discorso elettorale in cui si mettono avanti i grossi lumi e poi cosa si farà sarà difficile da vedere. Per esempio la riforma pensionistica è qualcosa per il quale i francesi hanno un'allergia totale, ci proprio difendono come una conquista alla quale non si può assolutamente rinunciare anche singoli mesi, sono pronti a scioperi durissimi. Non gliene importa nulla, quando guardano la pensione proprio stravedono, loro che sono in genere molto patriottici, non importa più nulla del niente, c'è la pensione che è il mio diritto. Questo per esempio nelle ferrovie è una cosa importantissima, si va in pensione a 50 anni, guai a dirgli andare un mese dopo. Ora Fillon non ci dice nulla di come farà. Sì, a me sembra quindi molto elevata anche il taglio della spesa pubblica per 110 miliardi, sapendo appunto qual è la sensibilità in Francia sulla spesa pubblica. Vorrei concludere anche perché stiamo andando alla conclusione su questo però, professor De Aglio. Allora, Francia ad aprile, Germania a settembre, il 4 dicembre il nostro referendum. Sono d'accordissimo con un'ascoltatrice che mi ha scritto, o un ascoltatore, Berisoni, dia questa notizia. Comunque va dal 5 dicembre, il sole sorge ugualmente alle 7:48, sembra un po' Obama durante la notte del sorpasso di Trump. Sono d'accordo, non drammatizziamo qualunque cosa in questo paese, così poi aumentiamo anche l'attenzione nei nostri confronti. Lei che ogni anno pubblica rapporto Einaudi proprio sul profilo dell'economia e lo scenario economico, che è vero che lo fate a febbraio, se non ricordo male, ma sì, lo facciamo a febbraio, ma che titolo? No, al 20 di gennaio. Ah, okay. Ma che titolo, a che titolo sta pensando? Per poter tener conto delle elezioni americane e del referendum italiano. Ecco, ma che tipo di scenario state, al di là del titolo vero e proprio, state delineando come 2017? Stiamo delineando uno scenario non ottimistico, per essere diplomatici nel linguaggio, in cui vediamo una serie di pericoli di rottura del tessuto mondiale degli scambi. Non è un caso che le previsioni Fondo Monetario parlano di un aumento del commercio internazionale uguale o inferiore a quello del PIL, mentre è stato sempre superiore, quindi il mondo non si integra più, le filiere produttive tendono a diventare un po' più corte, anche perché la Cina adesso costa un po' più cara di prima, eccetera. Il centro economico del mondo si sposta sempre più verso l'Asia, l'Europa ha una percezione ormai chiara di essere abbastanza periferica e anche quasi fuori gioco su alcune delle grosse tecnologie mondiali, dove è preceduta, tanto per dirne una, dalla Corea del Sud, pensiamo ai telefonini e ad altre cose. Insomma, un quadro di grande confusione con una tendenza alla disgregazione. Se su questo riusciremo a costruire, a impastire qualcosa che magari facendo un passo indietro su qualche concessione alle nazionalità, perché forse ci vogliono, ma poi queste nazionalità fanno un patto, allora forse riusciamo a ricompattare tutto. Altrimenti non sarà che un altro gradino all'ingiù che percorreremo come abbiamo percorso quelli dall'inizio della crisi. Allora, vedo un ascoltatore che dice la rottura del libero scambio sarà la nostra salvezza. Vedrete, io vorrei avere le sue sicurezze. Quello che so che storicamente tutte le volte che è aumentato lo scambio di merci, storicamente nel corso dei secoli è aumentata anche la ricchezza dei paesi coinvolti. Questo è il dato storico. Poi uno può immaginare che tornando a alzare le barriere, lo pensa per esempio in alcuni casi anche Trump, posso aumentare la ricchezza dei cittadini. Io non ho la sua certezza, tutto qua, non ho nessuna certezza su questo. Grazie intanto al professor Mario De Aglio in collegamento con noi. Andiamo sul GR24, poi commentiamo la borsa e poi parliamo anche di di Enel e di effetto Trump sui mercati. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. ...18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso andiamo alla borsa, più 1,40%, dicevamo Milano, oggi meglio di tutte le altre borse europee. Parigi fa più 0,40, e quindi un punto percentuale più di Parigi, e anche di Francoforte che fa più 0,30, Londra più 0,60, il Dow Jones dopo aver aggiornato nuovi massimi storici, sia il Dow Jones che lo Standard & Poor's, adesso è lo, più 0,09, cioè invariato. Molto bene oggi in borsa generali, più 3,70, Unipulsai più 3,30, ST Microelectronics più 3,20, Enel più 3,13, Italgas più 3%, Unicredit più 2,70 come banca, Mediolanum e CNH Industrial, il 2,40 lo guadagnano Exora, Intesa San Paolo, il 2%, Pop Emilia Romagna, l'1,80 Telecom, invece Tenaris perde il 2,80, Azimut il 2,70, Monte dei Paschi meno 2,70, Recordati meno 2,5, Ferragamo meno 1,30%. Allora, come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, l'approfondimento. Ciao Condina, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Dicevo, nuovi record per Wall Street con Dow Jones e Standard & Poor's, ma concentriamoci sui casi nostri. Intesa San Paolo, cari Firenze, diciamo, è la notizia, ma partirei da generali. Beh, per quanto riguarda generali, l'attesa è forte per l'aggiornamento del piano industriale che verrà presentato domattina a Londra. Oggi sono state riferite al Sole 24 Ore delle indiscrezioni riguardo un possibile intervento sul fronte dei costi. D'altro canto, negli ultimi anni diciamo che le assicurazioni, non solo generali ma a livello europeo, hanno pagato molto il basso livello dei tassi di interesse, che ovviamente lima la redditività, e così interventi sui costi si è parlato. È molto probabile una riduzione della forza lavoro nell'ordine del 10%, generale impiega circa 80.000 persone, 76.000 per l'esattezza, è sicuramente un intervento importante. Come spesso avviene in questi casi, poi la borsa premia quello che è un intervento che può incidere positivamente sulla redditività dell'azienda. Allora, andiamo avanti, poi ti rispondo anche a alcuni messaggi sul libero scambio. Andiamo avanti con la borsa, dicevo. Mediobanca oggi, insomma, molto molto incerta, vista che le banche sono andate abbastanza bene quasi tutte. Di Monte dei Paschi parleremo fra un attimo, però andrei anche sui titoli legati al petrolio, al di là dell'Enel di cui parliamo tra un attimo, nel senso che vabbè, Italgas più 3%, ma notavo come Eni abbia guadagnato solo l'1%. Oggi il petrolio è rimasto più fermo, anche se tutti danno per scontato quasi l'accordo OPEC non OPEC. Tutti lo danno per scontato, poi vedremo, perché sono già diverse riunioni dell'OPEC che sembra che sia quasi fatto, poi si rinvia sempre, anche perché gli interessi coinvolti, come è facile immaginare, sono molto forti. Eni oggi avanza dell'1%, comunque sono tutti titoli che venivano da un rally importante. C'è il caso di Tenaris, che infatti lascia sul terreno il 2,8%. Oggi il petrolio ha consolidato un po' il rialzo dei giorni scorsi ed è all'incirca attorno a $49 al barile, poco sotto a New York. Questo per quello che riguarda appunto Tenaris. Il peggior titolo però è Luxottica, meno 3,30%. Sì, Luxottica oggi paga il taglio delle stime sul 2016 da parte di Essilor. Essilor è la concorrente francese di Luxottica. Chiaramente questo tradisce, insomma, una delle difficoltà di una società che fa lo stesso mestiere di Luxottica, seppur con una minore diffusione a livello globale. Il titolo appunto della società controllata da Del Vecchio non è particolarmente brillante nell'ultimo periodo, veniva da un rialzo proprio nel breve termine. Oggi, insomma, molti operatori hanno colto l'occasione per servirlo. Ancora andiamo sui titoli migliori e peggiori in assoluto ricordati, meno 2,50, Monte dei Paschi meno 2,70, adesso ne parliamo. Dicevo, migliori e peggiori in assoluto: Notorious Pictures più 9,90, Bigon più 9, Digitouch più 8,70, Saras più 5,5. Fronte opposto invece Vinci meno 7, Gabetti meno 4,30, Calefi meno 4%, Landi Renzo meno 4% di Enel. CEO, insomma, il titolo reagisce molto bene al piano industriale presentato oggi, piano strategico 2017-2019. Tra l'altro ho presentato anche un piano di riacquisto di azioni proprie per 2 miliardi di euro e un incremento del dividendo. Nello specifico l'utile netto viene stimato a circa 3 miliardi e 600 milioni nel 2017, 4 miliardi e 700 milioni nel 2019. L'EBITDA ordinario di 15 miliardi l'anno prossimo e 17 miliardi nel 2019. Tra l'altro migliora appunto anche il dividendo con la previsione di un payout pari al 65% con riferimento all'utile netto ordinario consolidato dell'esercizio 2017. La cosa importante è che al 60% sale al 65% e al 70% se si guarda l'utile netto ordinario. La nostra Laura Bettini era a Londra per la presentazione del piano industriale di Enel e ha chiesto un commento, soprattutto anche una spiegazione sugli obiettivi, al numero uno di Enel, Francesco Starace. Stiamo parlando di un piano che fa crescere la nostra EBITDA da 15 miliardi, che è più o meno il numero con cui chiuderemo quest'anno, a 17 in 3 anni. E soprattutto è un piano che fa passare il nostro utile netto da 3,6 a 4,7, quindi conseguentemente ci permette di mantenere il percorso di crescita che avevamo individuato in termini di reti, in termini di rinnovabili, ma anche aumentare una politica di dividendi. Quindi oggi i dividendi degli azionisti dell'Enel avranno un incremento nella politica di dividendi che passa da un payout da circa 60% degli utili netti, come sarà come era previsto essere nel 2017, a 65% nel 2017, e soprattutto garantiremo per la prima volta un dividendo minimo garantito per azione nel 2017 pari a 21 centesimi di euro. Abbiamo raggiunto questi risultati finanziari grazie a una performance straordinaria in termini di efficienza, quindi siamo riusciti a ottenere efficienze operative all'interno di tutto il gruppo in misura maggiore rispetto a quella che avevamo previsto, e poi anche in funzione di un ribilanciamento del percorso di crescita. Quindi abbiamo modulato la crescita tra reti e rinnovabili, aumentando la percentuale delle reti rispetto alle rinnovabili, e questo a sua volta si traduce in flussi di cassa più stabili. Allora, Starace ha anche annunciato risparmi entro il 2019 per 1 miliardo di euro come gestione. E tra l'altro questo vuol dire un incremento di un raddoppio dei risparmi rispetto al piano precedente, di altri 500 milioni, e obiettivo di dismissioni per 3 miliardi con varie operazioni, sostanzialmente gli asset di generazione da fonte termoelettrica, da fonti rinnovabili, e i proventi dovrebbero essere destinati, tra l'altro cederà anche asset minori in America Latina, i proventi dovrebbero essere destinati per circa 2 miliardi a acquisire partecipazioni di minoranza e appunto a un eventuale programma di acquisto di azioni proprie. Su questo, sul buyback, come si chiama in gergo, e sul dividendo, sentiamo di nuovo Francesco Starace al microfono della nostra Laura Bettini. Noi sottoporremo all'assemblea prossima dell'Enel, agli azionisti dell'Enel, un piano di buyback di circa 2 miliardi destinato ad essere implementato se non riusciremo a portare a termine gli acquisti di minoranze di alcune società che abbiamo nel gruppo, e quindi come alternativa anche di creazione di valore questo piano di buyback verrà proposto agli azionisti. Allora, ciao Condina, insomma è questo quello che è piaciuto al mercato, perché il 3% mentre gli altri energetici oggi sono più cauti, non è poco, più 3,13%. Beh sì, io direi due cose. Innanzitutto il miglioramento dell'EBITDA, non dimentichiamo che il mercato energetico è forse uno dei mercati che sta vivendo la crisi più profonda in questi anni per il calo della domanda, perché le industrie insomma non girano come prima, quindi c'è tutta una riconversione di questi operatori sulle rinnovabili che non è facile. Beh insomma, per un gigante come Enel aumentare diciamo nel giro di 3 anni il MOL di 2 miliardi su 15 non è male sicuramente. Poi c'è il tema del dividendo, che anche quello è un tema importante, perché arrivare a dare un payout, cioè distribuire il 70% dell'utile netto ordinario che si realizza, è sicuramente un payout che dico è anche abbastanza sopra la media delle utility. Sì, saranno contenti i risparmiatori e in parte il governo, visto che lo Stato ha ancora una partecipazione importante in Enel. Sulle rinnovabili a cui tu facevi già riferimento, Enel prevede di investire meno, c'era già nel passaggio che abbiamo fatto ascoltare, il primo passaggio di Starace, meno 29% come investimenti, ma il che non vuol dire che non restino gli investimenti, tant'è che la capacità viene vista in aumento a 6,7 gigabyte. Ascoltiamo questo passaggio sempre di Francesco Starace, sempre al microfono di Laura Bettini. Sin dall'inizio, quindi parliamo del 2009-2010, ha deciso di non puntare sugli incentivi nelle rinnovabili, ma di guardare le rinnovabili come una parte importante di un portafoglio di generazione di energia di una società moderna. Questa scommessa l'abbiamo vinta, perché oggi la crescita delle rinnovabili nel mondo non va con gli incentivi, ma semplicemente perché le rinnovabili hanno dimostrato di essere competitive con la generazione termica tradizionale, laddove chiaramente c'è la risorsa. Oggi Enel Green Power è una realtà che mette sul campo circa 2.000-2.500 megawatt all'anno di rinnovabili senza affaticarsi eccessivamente. Questa capacità oggi la mettiamo a disposizione di un piano di crescita che ne porta circa 2.000, e ne metteremo una quantità importante a disposizione con un nuovo sistema, una nuova modalità di creazione di valore, che è quella di costruire, vendere e continuare ad operare gli impianti per conto terzi, generando valore nel tempo molto presto rispetto alla modalità precedente e non gravando sui nostri bilanci. Allora, questo per quello che riguarda Enel. Mi fanno notare gli ascoltatori, hanno ragione, chiedo venia, che non abbiamo commentato, poi l'avevo anticipato, ma non abbiamo commentato Intesa San Paolo e la vicenda Cari Firenze. Ciao. Ah, ma è molto semplice. Sostanzialmente oggi Cari Firenze, che è un azionista storico di Intesa San Paolo, nel tempo, dobbiamo ricordare, ha limato la quota fino ad arrivare all'attuale 2%. Oggi ha ribadito che la quota è strategica, che non intende venderla. Hanno anche ricordato che insomma la cessione non è neppure un tabù, quindi magari nel lungo periodo si potrebbe immaginare un alleggerimento della quota, però il fatto che un azionista comunque di peso abbia confermato il proprio impegno nel capitale, associato anche al fatto che è stata una seduta favorevole per le banche, di sicuro ha favorito il titolo. E questo per quello che riguarda anche Intesa San Paolo. Grazie a Ciao Condina. Dopo il traffico risponde anche alcuni ascoltatori sul tema del libero scambio, dopo l'allarme e la preoccupazione lanciata da Mario De Aglio nella prima ora sul prossimo rapporto della Fondazione Einaudi, cioè un 2017 in cui il libero scambio è a rischio. Io rispondevo a un ascoltatore che ha detto: ma è una buona notizia che il libero scambio sia a rischio. Facevo notare che storicamente, laddove è aumentato lo scambio di merci, di beni, è sempre aumentata anche la ricchezza dei paesi coinvolti nel corso dei secoli. Anzi, la dico subito la risposta: io non ho detto che non ho certezze, perché vorrei avere le certezze di alcuni ascoltatori. Attenzione, faccio solo notare che le imprese italiane che hanno avuto i numeri migliori in questi anni li hanno avuti grazie soprattutto all'export, quando parliamo delle 20-25 mila imprese che ce l'hanno già fatta. Ora, l'export significa proprio commercio mondiale. Io non capisco come possa uno avere tutta la certezza che se rallenterà il commercio mondiale noi ne avremo solo benefici, visto che le nostre imprese sono, anche quando sono di eccellenza, grandi esportatrici. Non è che vendono solo sul mercato interno, e i dipendenti sono in Italia, ma esportano le imprese all'estero. Tutto qua, da lì la mia estrema preoccupazione e dubbio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, traffico e poi Wall Street alle stelle dopo l'elezione di Trump. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Focus Economia. Allora, avevo promesso un approfondimento su Monte dei Paschi, abbiamo già detto che si è raggiunto il quorum per avere il CDA domani, e poi per l'assemblea il 20% serviva, grazie ai fondi esteri. Domani c'è il consiglio di amministrazione, giovedì c'è l'assemblea, rinviamo domani l'approfondimento, non ce la faccio approfondire in 4 minuti sia Wall Street che il Monte dei Paschi. E invece vorrei, salutando Moria Longo del Sole 24 Ore, che ne scrive oggi sul quotidiano. Buonasera Moria. Buonasera a tutti, ciao. Allora, insomma, abbiamo visto anche oggi, era immaginabile ritoccare qualche record sia sul Dow Jones che sullo Standard & Poor's 500. Che cosa sta piacendo in particolar modo alla borsa dell'effetto Trump, anche perché mi sembra che siano degli investimenti, degli acquisti tutti così, sulle ipotesi, no? Sì, e questo è il punto debole. Alla borsa piace il fatto che Trump promette una politica fiscale espansiva. Cosa vuol dire? Trump promette che taglierà le tasse soprattutto sulle imprese al 15% e promette che farà forti investimenti soprattutto sulle infrastrutture e investimenti pubblici. Queste due cose, cioè quindi una politica fiscale espansiva, dovrebbero, secondo le previsioni, comunque se Trump effettivamente effettuerà quanto ha promesso in campagna elettorale, dovrebbero da un lato aumentare gli utili delle aziende, che sono il vero assente a Wall Street degli ultimi tempi, e dall'altro alzare anche i salari dei dipendenti, dei lavoratori. Questo potrebbe riportare inflazione, diciamo inflazione buona, inflazione da salari che crescono, e quindi dovrebbe portare una crescita più sana dell'economia e anche degli utili aziendali. Quindi il mercato sta scommettendo su questo. Attualmente le imprese americane, soprattutto quelle quotate a Wall Street, hanno utili in calo da molti trimestri, e nonostante il prezzo delle azioni stia salendo, quindi la forbice tra prezzi delle azioni e utili è molto ampia adesso. Però il mercato scommette che la cura Trump riesca a far risalire proprio gli utili aziendali, e quindi scommette su questo. Però ripeto, è solo una scommessa. Abbiamo visto anche alcuni settori, in particolar modo mi riferisco al settore difesa da un lato e altri, però in tutto questo come si muovono invece i titoli di Stato? Perché abbiamo visto una Fed, una banca centrale americana, che tenta di mantenere, vuole mantenere la sua autonomia, ma da più parti danno tutti per scontato un rialzo dei tassi a brevissimo, forse anche più a breve che prima delle elezioni di Trump. Sì, assolutamente. Attualmente il mercato sconta con una probabilità del 100%, quindi è ormai sicuro, almeno secondo le stime dei mercati. Ha la certezza più che il 100%. Ha la certezza, non sempre ci azzecca, ma in questo caso probabilmente ci azzeccherà, che a dicembre la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, alzerà i tassi di interesse ufficiali americani. Questo perché? Da un lato proprio perché per la politica di Trump, comunque la politica fiscale espansiva, se portassi in rialzo i salari potrebbe aumentare l'inflazione. E quindi per raffreddare l'inflazione aumenti i tassi. Certo. Sì, comunque per adeguare, perché i tassi sono ancora molto molto bassi, per adeguare i tassi a uno scenario che non è più d'emergenza come era quello che giustificava tassi molto bassi. Quindi il mercato, e comunque a prescindere da Trump, il mercato sta scontando negli Stati Uniti, ma in realtà in tutto il mondo, un'inflazione lieve rialzo, anche per i prezzi del petrolio che salgono e per mille motivi. E quindi questo induce la Federal Reserve ad alzare i tassi di interesse. Quest'anno sicuro a dicembre, almeno così pensa il mercato, probabilmente anche qualcosa farà nel 2017. Ed è quindi ovvio che i titoli di Stato adeguano i loro rendimenti al rialzo proprio per adeguarsi a tassi di interesse ufficiale più alti e a un'inflazione più alta. Quindi diciamo che i titoli di Stato stanno scendendo come prezzi e aumentando i rendimenti. Questo negli Stati Uniti, ma è un fenomeno in realtà globale. Dunque, mi scrive un ascoltatore. Dunque, avete fatto settimane di trasmissione dicendo che i mercati sarebbero crollati con le elezioni di Trump. Guardi, in un altro programma, in un'altra radio, insomma, qua non abbiamo mai detto che i mercati sarebbero crollati con l'elezione di Trump. Abbiamo fatto due puntate sulle politiche economiche dei due candidati, Clinton e Trump, ed è almeno un mese che ripetiamo che è sbagliato, anche nel caso del nostro referendum, legare il destino dell'economia a breve, del ciclo economico, all'andamento di un voto come quello, per cui si figura se lo diciamo per Trump. Altra cosa poi l'andamento di un po' di speculazione sui mercati, quindi forse si riferisce a qualche altro programma. Grazie intanto a Moria Longo, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17, prometto che faremo l'approfondimento sul Monte dei Paschi, domani appunto Consiglio di Amministrazione, dopodomani l'Assemblea degli Azionisti. Radio 24, libera la voglia di fare.